Io sono Babe. Io sono Sasà. E questa è Absolute Beginners. Benvenuti, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questa è una puntata a cui tengo molto perché i Battlers, se parleremo di loro, sono un gruppo che fornì per l'esattezza una delle sigle delle mie trasmissioni radiofoniche passate, quindi ci sono molto legato come band. E poi c'è poco da fare. Quando uscì il loro primo vero e proprio LP, che si chiamava Mirrored, nel 2007, fu come un fulmine a ciel sereno. Io lo comprai praticamente il giorno dopo averlo ascoltato in radio. Beh, iniziamo, Babe, dai. Thank you. qualcuno l'ascolto, ma hai provato ad entrare assieme alla batteria di John Steiner in questo brano? Comunque, siamo sempre su Absolute Beginners, questi sono i Battles, non è Mirror del loro primo album, ma bensì un EP che è uscito nel 2004, si chiama EP C. Io non li conoscevo ovviamente nel 2004, li ho scoperti grazie a Mirrored, ma poi quando un mio amico mi suggerì, guarda che babbe che sono più belli gli EP, mi chiesi, ma l'EP A dov'è? Perché uscì prima l'EP C, poi l'EP B, l'EP A non pervenuto. Non pervenuto, mai esistito, nascosto, chi lo sa, magari un giorno ci arriverà anche il loro EP A. Questi due EP uscirono, come forse hai detto, babbe nel 2004, sotto due etichette diverse, il primo per la Monitor Records, il secondo invece per la Dim Mac Records, che piccola curiosità è l'etichetta di Steve Aoki, e però la Warp, che poi pubblicò tutta la successiva discografia dei Battles, si accorse che questi due EP che il gruppo aveva fatto valevano qualcosa, erano belli, e decise nel 2006 di pubblicarli assieme, quindi sotto la Warp. poi a un certo punto mi trovai a chiedermi: ma Babe, ma cosa fai? Ascolti progressive? Eh sì, perché i Beatles sono caratterizzati da tempi di batteria ritmiche comunque dispari, estremamente dispari, ritmiche tipiche del progressive anni 70, che io avevo sempre aborrito e detestato. Ma non è così, siamo nel 2004, i tempi sono cambiati, le tecnologie sono cambiate, qua c'è parecchia elettronica, direi parecchi computer, o quantomeno l'uso dei computer deve aver cambiato la testa di questi quattro ragazzotti, che non solo avevano, altra cosa che mi faceva dubitare di me stesso era che i Beatles sono praticamente una sorta di supergruppo, che era un'altra cosa tipica del progressive, perché allora, uno dei chitarristi, Ian Williams, lo conoscevo già, era parte di Don Caballero, che era un gruppo post-hardcore, mathcore degli anni 90, e Steve Konopka era nei Lynx, un altro gruppo della stessa stregua. T'Andre Braxton è il figlio di Anthony Braxton, che io ovviamente non conoscevo, ma poi andai a studiare, diciamo. Anthony Braxton era uno dei più è ancora vivo, uno dei più famosi jazzisti free di tutti i tempi. E John Steiner, quello sì che lo conoscevo molto bene, era stato batterista per anni degli Helmet, una delle mie band noise preferite. Sì, Babe, hai nominato la corrente progressive, che ovviamente sulla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70 era una grossa moda e vendeva un sacco di dischi in Inghilterra, però io invece a differenza è stato forse il mio primo amore la musica prog, e beh, anche qua album del 2004 sentiamo qualcosa, non so, io ci sento un po' di Robert Fripp, The King Crimson. Quindi qualcosa di quella scena ha influito la musica negli anni a venire, insomma, fino a New York City, anno 2004. Thank you. Ma mi stavo chiedendo, Babe, cosa abbiamo ascoltato adesso? Un assolo di batteria? Forse, però a me l'impressione che mi lascia è quasi di una drum machine lasciata da sola, tutti gli altri strumenti si spengono e rimane un qualcosa di già composto, già registrato, che sta andando avanti. E beh, come tu dicevi, forse fa bene o rientra nell'economia di un concetto che sta dietro a questo EP. A lezione di batteria con John Steiner. Butta via. No, è molto concettuale tutto il disco, non è un disco rock and roll alla CDC, che sono appena tornati, peraltro. No, è un disco, boh, qualcuno dice postmoderno, non lo so, è un disco molto cerebrale, molto pensato, sembra neanche composto su uno score, su una partitura, ma addirittura fatto già pensando all'Ableton Live, al software di composizione elettronica. Invece no, invece suonato con chitarra, basso, batterie e tastiere. Poi, per chi li avesse mai visti dal vivo, sono tutti e quattro talmente, talmente bravi tecnicamente, e li puoi vedere scambiarsi gli strumenti, o addirittura Ian Williams, non ricordo, che suonava, andava in tapping con la sinistra sul manico della chitarra e con la destra suonava le tastiere, perché un'altra cosa importante di questo disco è la presenza dell'elettronica. Ripeto, non siamo più negli anni 70, sono passati 20 anni, l'elettronica è cambiata, non sono più i synth analogici, e invece i synth, le tastiere attuali permettono di fare questo e altro, nonché direi le loop station, che penso siano state usate tantissimo in questo disco, che nel 2004 erano una cosa abbastanza Innovativa. inconsueta, sì. Thank you. Io sono sempre Babe. Io sono sempre Sasà, siamo sempre qua ad Absolute Beginners. Sempre in compagnia dei Battles, questo è l'EP B, uscito poco dopo il primo, l'EP C. Già il tono giocoso e divertente dei Battles veniva fuori anche da questi piccoli giochetti editoriali, chiamiamoli, che poi si riflettono anche nella loro musica. C'è poco da fare, vabbè, a parte i prog, a parte da dove vengono i singoli musicisti, vengono tutti da musiche molto più dure. Gli Helmet erano, dove suonava John Steiner, e il batterista, erano uno dei gruppi più violenti della New York fino agli 80, e hanno coniato il genere noise praticamente. Ma poi le cose sono cambiate, siamo nel 2004, 2005, insomma, tutto è diventato un po' più cerebrale. Poi c'è molto spazio, molti vuoti, dicevamo prima, microfoni spenti in questa musica. Non è così compressa come il noise o come il post-hardcore dove questi ragazzi vengono. Esatto, Babe, stavamo dicendo, beh, questi suoni sono privati di tutta la loro distorsione. Parliamo di post-hardcore, ma questa componente dell'hardcore, ovvero la distorsione, qui è inesistente. E rimane gli strumentisti, i musicisti, a scambiarsi botte e risposte molto brevi, ma come appunto stavamo dicendo prima, con questo silenzio di fondo che si può sentire, lo percepiamo proprio ascoltando i due P in questione. Thank you. Io poi, prima o poi, arriverò a capire cosa era successo a questi ragazzi, perché sono passati da sonorità così veloci, rapide, violente, a queste cose così, addirittura eteree, come avete appena sentito in questo ultimo brano. Io non so bene voi, gentili ascoltatori, cosa ne pensiate, ma vi consiglio di ascoltare, che ne so, In Time degli Helmet, oppure Don Caballero 2, per farvi un'idea di cosa suonassero 10 anni prima questi ragazzi. Ma il tempo passa, cambiano le mode, cambiano i suoni, cambia il contesto culturale nell'intorno. Probabilmente stare a Brooklyn, a Williamsburg, all'inizio degli 2000 era ancora un buon posto dove poter creare musica sperimentale, perché comunque c'è, ok, musica orecchiabile, diciamo prima, ma fino a un certo punto. Babe, ti sei risposto da solo definendo la musica musica sperimentale, per questo che poi questi ragazzi riescono a comporre anche un brano come quello che abbiamo ascoltato adesso, questi 12 minuti eterei e abbastanza inconcludenti, che testimoniano la loro voglia di ricerca e di sperimentazione. E la possibilità di farla E la possibilità di farlo nel loro contesto. quando a Williamsburg era ancora, come dire, possibile pagare un affitto, probabilmente. E dopo questa considerazione da mercato immobiliare, vi salutiamo. Alla prossima. Ciao a tutti, un saluto da Sasà. E un saluto da Babe. Buonanotte, buona giornata. Ciao.